partiamo puntuali, 11 e 31 minuti che scoccano in questo momento dagli studi di Via Zanardi, la penultima puntata per il 2023 di Jazz Live, e quindi si inizia notando la bellezza di una giornata seppur alle porte dell'inverno, con uno splendido sole, e la luce del sole in giornata invernale è particolarmente luminosa, tanto più che per non abbagliare al freddo ho dovuto correre ai ripari con la tapparella di redazione. Avevi troppa luce. Sì, ma avevo anche gli occhiali scuri, quindi ero pronto tutto. Alla Ray Charles, insomma. Sì. E intanto che potessi queste nostre citazioni poetiche, prima di partire con una playlist e una presentazione per quanto riguarda tutti i contenuti del Jazz Club Estense, anche lui è arrivato al penultimo weekend di presentazione, poi arriveremo anche agli auguri nella prossima puntata. Per quanto riguarda appuntamenti di, non dico di contorno perché sono tutti importanti, anche tu stai lavorando a proposito di qualcosa di più esteso con il jazz. Sì, perché noi andremo in vacanza, Jazz Live è sempre sull'attenti, pancia in fuori, com'è? Pancia in dentro e petti in fuori. Nel mio caso pancia in fuori e petti in dentro. Esatto. No, perché andremo a indagare quello che è la ventata di jazz che percorrerà l'Italia centrale, prima a Umbria Jazz invernale, a Orvieto, che è un appuntamento classicissimo, poi all'Aquila Jazz, che di fatto è un prolungamento dell'Umbria Jazz, e qui avremo un'intervista col direttore artistico per saperne più cosa presenterà quest'anno, anzi ci partirà il 17 con Paolo Freso all'Aquila. E anche super attivo, Paolo, certo. Freso, come ben sapete. Ho portato come base questa rivisitazione di So What, Kind of Blues. Kind of Blues. Certo, il disco capolavoro di Miles Davis, qui ripreso da Ronnie Jordan. La presenza di un batterista in questo Star Game di musicisti, nel brano originale Jimmy Cobb, ricordo, tra i diversi musicisti che hanno portato la scrittura di So What. E perché ho citato Jimmy Cobb? Perché partiamo con un batterista altorione, il suo progetto Empty Music, Marco Frattini, il trio che vede Claudio Vignali al pianoforte e Gabriele Evangelista alle percussioni. Di questi musicisti con il frontman Marco Frattini ne parleremo in maniera dettagliata. È un bel venerdì, è la presentazione di un lavoro che certamente dà un aspetto più primario. Abbiamo già conosciuto Marco in programmazione al Torrione per un'attenzione al jazz italiano, che ha visto una sua crescita ma allo stesso tempo anche una capacità di intrattenimento e di atmosfera molto particolare. Qua c'è un'ispirazione tratta da un musicista di cui parleremo poi nel rientro tra un motivo di conversazione e l'altro. Con Marco Frattini questa sera si inizia, sarà al Torrione, e appunto per presentare Empty Music. Il lavoro sarà presente anche in vinile a disposizione del pubblico, e quindi non ci resta che iniziare il nostro dialogo insieme al batterista Marco Frattini. Allora, il titolo, diciamo, dell'album deriva intanto da una composizione inedita di Chili Gonzalez, che è il compositore che mi ha ispirato, diciamo, a creare questo disco, e poi sta a significare una mia esigenza che al tempo, quando andai in studio per registrare l'album, sentivo, cioè di intraprendere un viaggio musicale più rarefatto, quindi anche dal punto di vista batteristico togliere tutto quello che si tende magari a fare con un po' di entusiasmo, quindi overplaying, attenersi proprio alla forma canzone, togliere invece che aggiungere, ecco, questo è un po' la spiegazione alla veloce di Empty Music. Sì, infatti è un lavoro più di introspezione, conoscendo altri tuoi lavori e composizioni. Esatto. Qualcosa che è tutt'altro che barocco, anzi direi che si occupa di più di riflessione, emotivo, di ascolto rarefatto, come giustamente tu l'hai definito. Con te Claudio Vignali al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso, come saranno queste intersezioni nella scrittura di Empty Music? Allora, Claudio è stato fondamentale mettere, diciamo, su carta tutte quelle idee musicali che avevo, perché comunque sono tutti brani di Gonzalez che ha inciso in piano solo e io ho riarrangiato per trio, ho reimmaginato per trio, e quindi Claudio è stato proprio il cardine, diciamo, di tutto questo. E Gabriele, cosa ci può dire di Gabriele che non sia già stato detto? arriva e fa quadrare il cerchio immediatamente. Cioè, il disco è un insieme di take 1 o al massimo take 2. Cioè, noi ci siamo visti, abbiamo letto i brani il pomeriggio e poi abbiamo registrato. È stata una roba flash e abbiamo anche, secondo me, colto quella cosa che un po' si perde ultimamente, che invece hanno i dischi, che ne so, più vecchi di jazz, cioè l'immediatezza, la take 1, anche con magari qualche imprecisione, però la freschezza dell'ascolto primo, diciamo. Sì, infatti, l'aspetto primario, che non vuol dire primitivo. Esatto, che possono assomigliare, ma sono ben diverse. Che è fruibile e raffinato allo stesso tempo, come abbiamo in questa parte di conversazione con Marco Frattini riportato all'attenzione un ascolto che è, non dico mainstream, ma certamente ha una sorta di raffinata leggerezza. Certamente questa non vuole essere una critica, anzi tutt'altro, è un motivo di merito. L'ispirazione a Cilly Gonzales, che è un compositore oltre che pianista di musica elettronica, ha collaborato con Jimmy Liddell al suo primo lavoro, che è stato un disco per Warp Record veramente molto molto importante. Chi era Alfredo, quel musicista che diceva: io non voglio mai avere quel motivetto che mi risuona in testa, perché sennò non riesco più a comporre. Schumann. E infatti, quando ho chiesto le ispirazioni per quanto riguarda Cilly Gonzales in funzione di Marco Frattini, ha detto più o meno la stessa cosa. Il problema per me è stato un po' esorcizzare anche queste note che mi risuonavano continuamente. Allora ho voluto dare un'interpretazione mia e dargli un corpo per riuscire a togliere, non dico questo fantasma, ci mancherebbe, ma questa continuità di suono che portava avanti il mio pensiero. Ed è di questo che abbiamo parlato nella seconda parte di conversazione con Marco Frattini. Il lavoro sarà disponibile al Torrione, come vi ho detto, il tipo di ascolto e anche le sensazioni sono assolutamente di un'importanza non solo per il jazz italiano ma anche per una visione estesa. Le sue collaborazioni e lo studio di Marco Frattini negli Stati Uniti d'America, abbiamo citato Jimmy Cobb e anche tante altre realtà che hanno portato crescita nel suo lavoro e nelle sue note. Sentiamo appunto di che si tratta a proposito di ispirazioni. Allora, il lavoro sarà a disposizione al concerto, il disco? Sì, avrò con me vinili, i CD e anche le magliette che stampammo in occasione del Jazz It Abroad che vincemmo con questo trio che ci portò a fare un tour in Germania l'anno scorso. E quindi abbiamo fatto anche un po' di merchandising con presentazioni in note, anche quello che invece è molto importante per avere il supporto. Onore al merito per aver portato l'impegno del vinile, che è sempre qualcosa di oltre che importante nel vostro lavoro e nel nostro lavoro e nella diffusione musicale. In conclusione, quello che volevo aggiungere per quanto riguarda il concerto, per progetti futuri? Progetti futuri ce ne sono due o tre in cantiere, ma al momento non rivelo niente perché sono in divenire. Okay. Esatto, e poi anche una sorta di scaramantia, voglio vedere chi primeggerà. Diciamo. Non insisto. Però dopo l'esperienza del trio che continuavo a portare avanti, volevo anche concentrarmi sul mio solo, che è da un po' di tempo che sto portando in giro e sento che ha bisogno di un po' più di attenzione, quindi da parte mia mi chiama l'attenzione, quindi gli darò più attenzione, diciamo, questo solo, voglio svilupparlo maggiormente. Perché questo lavoro, questo musicista Gonzales è stato così protagonista delle vostre scritture, come proprio lui? Ma è stato un caso, mi ricordo che ero in tour, non mi ricordo con quale gruppo, e nel tour bus ho sentito questi brani e lì per lì non ho prestato troppa attenzione a questa musica. Il problema è che mi si sono piantati nel cervello, al che ho detto ok, questa è una cosa che bisogna ascoltare, perché è proprio stato inconscio. E allora ho iniziato a fare delle ricerche, mi sono appassionato sempre di più e immediatamente, mentre sentivo questi brani in piano solo, immediatamente nella mia testa si costruivano gli arrangiamenti per trio. Era come se il disco mi suonasse già immediatamente. Ho detto allora bisogna farlo, perché è un segno. È anche un segno di esorcismo, così dopo finalmente avrò il mio, non sempre sentire queste note, finalmente potrò metterle con interpretazione personale e insieme a Claudio Vignali al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Marco Frattini batterie e percussioni, Empty Music per il Torrione venerdì 15 dicembre a Ferrara. Grazie per questa anticipazione, Marco, e buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Anche a voi, ciao. Eccolo, Gabriele Evangelista, musicista, contrabbassista, presente in diversi progetti, veramente sa far quadrare ogni momento con un timing perfetto, tra i più talentuosi sul panorama italiano e non solo. Al piano, del resto, come Cilli Gonzales, pianista, anche pianista Claudio Vignali, per la formazione di questa sera al Torrione, per la conduzione, anche se insomma il lavoro è d'insieme tutt'altro che vuoto, questo Empty Music, alla batteria Marco Frattini. Ed eccoci qua, caro Alfredo, a procedere nel nostro weekend che è arrivato al sabato. Quando hai visto il nome del sabato, subito hai avuto però. È una delle cose più interessanti del programma del Torrione, che pure abbiamo un programma di livello. Lui, Alexander Hawkins, pianista britannico, figlio d'arte, il padre suonava clarinetto e pianoforte. Lui ha fatto un po' musica classica, poi si è avvicinato al jazz senza andare nelle scuole, perché non voleva essere condizionato più di tanto, ed è un grandissimo ammiratore di Art Tatum, cioè lui per Tatum è il suo fan. E poi naturalmente ha incontrato, va da sé, Monk, Thelonious Monk, e di Monk lui apprezza moltissimo Helmut Knope, che secondo lui è il pianista unico che ha saputo trarre da Monk delle significative lezioni per poter procedere. Comunque è importante che lui è stato avvicinato al grande giro col batterista Obinium, e quindi sta nel giro di Braxton, e non è un caso che poi lui elabora pezzi di Braxton, di Badalalo Smith, di Bass Morris, dell'avanguardia, compreso anche personaggi come Shabaka Hutchings, uno delle no? Certo. Rivelazione del sax inglese, e poi ovviamente di Anthony Braxton. E devo dire che sì, ho fatto un po', ho detto ops, perché per esempio il suo disco in duo col nostro Ottaviano al sax è una cosa migliore di quell'anno delle produzioni discografiche, tra l'altro premiato da Musica Jazz nel suo solito top ten dell'anno stesso. Quindi credo che lo ritroveremo di Hawkins ovviamente al pianoforte, Nell Charles al contrabbasso e Stephen Davis batteria, una formazione tutta straniera, la formazione sì. Non sono italiani. Beh, un concerto credo che sia là importante. Sarà il concerto di domani al Torrione. Ho selezionato un brano tratto da un live, la formazione è quella che ascolteremo appunto domani, ve lo propongo e poi rientriamo in diretta con il Jazz Live di oggi, venerdì 15/12/2023. Si intuiscono i motivi di un jazz con una scrittura contemporanea, un modern jazz, ha anche uno sguardo in avanti, il lavoro con Anthony Braxton, e nello stesso tempo si percepisce in maniera molto nitida la presenza di Art Tatum. Me l'hanno detto, no? Appena è partito mi è queste scale. Esatto. Non molla un millimetro, molla un millimetro. Alexander Hawkins con il suo trio che vede Neil Charles al contrabbasso e Stephen Davis alla batteria. Sarà domani al Torrione per sabato 16 dicembre. Come si diceva, sì, il programma, oltre che essere eterogeneo, dare spazio non solo geograficamente ma anche a livello di contenuto artistico musicale, la domenica conclude il weekend con la rassegna curata da Istantanea Serico Tonale. Già sappiamo gli ingredienti, no, di questa realtà musicale. Abbiamo sentito Elide Sulsenti al violoncello per le ultime due domeniche, prima con l'Istantanea Ensemble e poi con un lavoro che la trovava solista. Ora è il momento della violinista Alma Napolitano. Domenica 17 dicembre si concluderà appunto la rassegna, per cui con Alma Napolitano al violino e Antonio Marchetti alla fisarmonica, dico bene, Antonio Macaretti alla fisarmonica. È interessante come verranno messi insieme questi suoni e come saranno portati per la rassegna Serico Tonale al Torrione nella giornata conclusiva di weekend. Allora, ho contattato Alma Napolitano, ma intanto che si sviluppavano le prove ho visto bene di chiedere di portare in conversazione anche Antonio Macaretti, fisarmonicista, insieme alla violinista Alma Napolitano. Sentiamo appunto la conversazione, sperando di non aver disturbato troppo il momento di prove tra i musicisti. Sicuramente particolare nella sua forma, perché nasce sostanzialmente da un progetto, da una collaborazione innanzitutto, che grazie ad Antonio Macaretti, appunto il fisarmonicista che suonerà con me domenica, ha studiato a Malmo e quindi lì ha poi intessuto una rete di contatti, di collaborazioni che ha mantenuto vive nel tempo. E questo ci ha permesso, a distanza di molti anni, poi di rintracciare alcune delle sue figure più vicine al suo mondo e di coinvolgere questi compositori appunto nella scrittura di alcuni brani. Scritti proprio esattamente per noi, cioè per questo organico, perché comunque con Istantanea si immaginava di fare appunto una spedizione a Malmo, di portare il nostro progetto a Malmo, e la cosa oggettivamente più semplice era ideare comunque un duo, un trio, massimo un quartetto. Quindi poi alla fine, per una questione di facilità, ecco, abbiamo scelto il duo. Poi noi siamo amici da molto tempo, insomma c'era una serie di fattori che ci hanno fatto preferire, ecco, questa formula qua. Quindi tutto in realtà nasce dalla collaborazione tra Antonio, il conservatore di Malmo, queste persone che sono tutte coinvolte appunto nella scrittura di questi brani per il duo. Quindi forse è il caso che Antonio spenda due parole su questo. Allora, dunque, domenica suona questo concerto, è composto da un programma di composizioni, di alcune composizioni scritte appositamente per questo progetto, per questo duo. Quindi abbiamo chiesto ai compositori di Malmo, che sono Francesco Del Nero e Jonathan Sersan, di scrivere un pezzo per fisarmonica e violino. Poi ci sarà un pezzo di Alan Abd El Monim, un compositore di origine egiziana di Milano, che ha scritto un pezzo appositamente per noi, ha accolto volentieri l'invito. Poi ci sarà un pezzo di una compositrice tedesca che aveva già scritto, ma mi ha donato volentieri per questo progetto, di Annette Schlund. E ci sarà un pezzo di Dimitri Sillazzo, di Istantanea. Quello di Dimitri è per violino solo, che suonerà Alma, e il mio è per fisarmonica sola. Quindi questo è il programma che andremo a presentare. Diciamo che l'aspetto interessante è quello di un filo rosso che collega un po' tutti i brani, anche, cioè, scritti da persone diverse, però c'è qualcosa che ricollega, quindi l'intero programma è come un unico viaggio quasi, non c'è quasi interruzione tra un pezzo e l'altro, ma viene naturale quello, perché c'è qualcosa che sarà, cioè, appunto, rispecchia la nostra epoca, quindi suono, ne sono cambio in base ai tempi, quindi è qualcosa che secondo me sentiamo molto vicino, quindi invito a venire a partecipare a questo concerto e condividere con noi questa esperienza e questo viaggio di nuove musiche per questa occasione. Volevo solo precisare che i ragazzi di Malmö e il loro collettivo Heartbreakers, appunto è il collettivo che ha partecipato insieme a noi istantanea per realizzare questo progetto. Io mi scuso per aver interrotto le vostre prove, ma vi ringrazio tantissimo per questa anticipazione istantanea con la rassegna Serico Tonale domenica 17 dicembre, Alma Napolitano violino, Antonio Macaretti alla fisarmonica, per Radio Città Fujiko all'interno del Jazz Live, appuntamento al Jazz Club di Ferrara il Torrione. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille, ciao. Non mi chiedere quale, perché io proprio sono di un'ignoranza sisifea, vivo solo di emozioni ascoltando tutto ciò e sono tante, ma è una musica tratta da Beethoven in questo certo. Caso che troviamo in un ensemble. Esatto, con la violinista che sarà però in duo con Antonio Macaretti alla fisarmonica, Alma Napolitano al violino. Progetto tra l'altro in intersezione, come abbiamo ascoltato prima dalla voce di Alma, con la città di Malmö in Svezia. Per cui pensa al Torrione, Alfredo, siamo partiti con interessante sviluppo su jazzisti italiani. Siamo arrivati poi con il jazz di una certa fattura con Alexander Hawking e una realtà di approccio che vede tra il contemporaneo e il classico sviluppato con un duo quanto mai originale in un contesto così speciale come il Torrione. Oh, sono proprio bravi, E poi noi dovremo prima o poi fare un focus sul violino del jazz. Dai. Dal Graffi lì con Django Reiner, Eddie Vinuti con Bis Baider, Ray Nance con Duke Ellington, fino a Roy Jenkins e poi Billy Bang. Ascolta, Charlie Parker non ha registrato. Sì, anche con i violini. Perché arrivati sugli anni 50 dice adesso basta, voglio vivere comodo. E fece incisione con i violini, ma non ebbe particolare successo. Infatti, perché io mi permetto di dire che ho questo CD. No, non è un gran CD. Nell'opera di Parker certamente non è quello che fa la storia. Ecco, nell'opera ma di visto che parliamo di personaggi Parker, vorrei segnalare domani a Salpinas alle 11 abbiamo Dave Brubeck. Con Paul Desmond in questo. Qua sono già più competente. Dal vivo, sono ristampe, sai, che si ristampano molte cose. Un concerto del 59 c'è Dave Brubeck che contiene volume di note incredibile e Paul Desmond che le centellina come diciamo, permesso. Il mio preferito. Ogni nota è perfetta. A seguire c'è Hasan Ibn Ali, che non nessuno conosce, salvo io che comprai a suo tempo un disco Max Roach, l'incredibile Hasan. C'è lui! E invece questo qui era un pianista che segue le orme di Monk in modo originale, che ha inciso poi dopo l'Atlantica è andata a fuoco e le sue incisioni sono andate bruciate, quindi questo è un disco di Hasan in qualche modo, Evening with Adams, beh insomma. E poi c'è clamoroso un Joe Henderson dal vivo che fa la fine e che con Charlie Haden che è mostruoso e Al Foster la batteria, quindi tre colossi da non perdere. Insomma, devo contattarlo, vedrò domani al Torrione Sandro Baroni per avere questi dischi che insomma sono veramente delle chicche, quindi non perdete Salpinas e neanche la seconda parte di Jazz Live, perché ci sarà un graditissimo ritorno subito dopo la pubblicità. A tra poco.